Innamorati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Salutare, ha salutato davanti alla tribuna Ducati. Alla grande, gli ha salutati. È uno sfregio questo. Speriamo che l'abbiano ricambiato. Viva lo sport, è così. Con un grande applauso. Assolutamente. Ecco. Bravo, merito, bravo Lorenzo. Bravo anche Lorenzo. Noi glielo facciamo un grande applauso. Bravo Lorenzo. Lorenzo c'è e va a vincere il Gran Premio di Italia. E poi Iannone davanti a Rossi. Altri due italiani sul podio. Nel 2014 sembrava l'anno de Marquez vincendo queste 12 gare consecutive, quest'anno sembra l'anno di Yamaha, non so se alla fine vincerà Valentino, vinceremo noi, magari anche può vincere l'Educati o Marquez, perché come ho detto prima può succedere tutto, però sembra che quest'anno abbiamo la moto più equilibrata degli ultimi anni. Cosa ho dovuto fare? È una gara veramente difficile, no? Ma si sapeva, lo sapevo. Però non ho molta voglia di raccontarvi perché sinceramente l'ho vissuta giro per giro. È stata molto difficile, tanto dura, però è stata una gara fantastica, no? Presto per dire che il campionato è chiuso, perché naturalmente mancano ancora 12 gare. Oggi due dei quattro che sono lì davanti hanno perso tanti punti, perché anche Dovizioso, no? Era davanti a Marquez in campionato, ma si è ritirato, ha preso zero e Marquez è caduto, quindi noi due abbiamo allungato. Ci siamo, 800 24 00 24. Carlo Genta qui con me, c'è già un ospite al telefono, Alessandro Pasini. Ciao. Del Corriere della Sera. Ciao Alessandro. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Oggi partenza dedicata alla MotoGP, intanto perché non c'è il calcio, torna questa sera, abbiamo i verdetti dell'ultima giornata e anzi sin da adesso 800 24 00 24, aspetto le vostre telefonate per sapere come la vedete, insomma, che cosa succede tra Napoli e Lazio, se la Samp si suicida lasciando strada all'Inter per l'Europa League. Poi parleremo anche della settimana di scandali e avremo un importante ospite nella seconda ora. Però oggi apriamo con la MotoGP, anche perché dal Mugello arrivano notizie importanti, Carlo. Arrivano conferme, arrivano... Certo, ma anche ci fosse stato il calcio, ne valeva la pena aprire con il Gran Premio d'Italia, è stata una corsa bellissima. E secondo me ha segnato un punto importante perché, credo, non so Ale se sei d'accordo, da oggi, da questo momento, il grande favorito per la vittoria finale è quello che ha vinto oggi, che ha vinto le ultime tre gare, Jorge Lorenzo. Cioè l'inerzia in mano sua. Io di sì, perché Lorenzo è proprio in uno stato di grazia unico, incredibile. Addirittura qualcuno oggi gli ha chiesto se è il miglior Lorenzo di sempre. Lui insomma ha un po' nicchiato, dice no, beh, ho avuto anche altri grandi momenti, ovviamente avendo vinto qualche mondiale, no? Però sicuramente siamo di fronte a uno dei migliori Lorenzo della storia. La qualcosa poi coincide anche con una geografia tecnica un po' strana, no? Perché Valentino è in leggero calo, poi avete visto Dovizioso e Marquez sono saltati per aria, Iannone è stato fantastico, ma non è ancora pronto per una vittoria, almeno non lo era oggi per questioni più fisiche, io direi, che tecniche, e quindi Lorenzo viaggia che è un piacere. Quindi hai ragione, è il favorito e lui per il momento si chiama leggermente fuori da questa responsabilità, sì, dice sì, che bene. È l'anno Yamaha, l'avete sentito, è l'anno Yamaha. E io credo che dobbiamo attenderci un primo spareggio da brividi tra 15 giorni a Barcellona, memoria anche di quello che accadde nel 2009, sì, proprio certo, tra Valentino e Jorge. Allora, vedremo se davvero tutto quel miele, no, che stanno spargendo in questo periodo è vero oppure è solo una finzione. No, ma oggi mi è parso però di intravedere, ma un po' in tutto il weekend, Valentino Rossi un po' nervoso sul tema, cioè sul tema di avere in casa un compagno che va così. Però Valentino non può tutte le volte partire da metà schieramento e spaccarsi la testa per arrivare sul podio, È quello il problema, Carlo, hai ragionissimo. Io credo che lui stia rischiando di perdere un titolo per le pessime qualifiche e per il lavoro così, insomma, un po' ondivago, altalenante, che fa nel weekend, perché non è possibile, davvero non è possibile che tutto debba sempre poi risolversi in rimonte, no? Cioè, in fondo, dovendo dare un voto oggi a Valentino, certo la gara è stata notevole, però che voto gli si dà? Perché da un lato è stato fantastico, è chiaro, però dall'altro parte ottavo e quindi ha fatto due giorni così così, poi scivola undicesimo posto, insomma, questo è da mettere in conto. Lui, secondo me, sta rischiando davvero di buttare, adesso è presto per parlare di buttare un titolo, ma insomma adesso dopo un terzo di stagione possiamo avere un po' le idee chiare. Oggi, insomma, un Valentino che parte dalla seconda fila, no? O che semplicemente parte normale, non dico come Marquez, ma fa una partenza decente, forse può anche puntare al secondo posto e sono 4 punti in più, eccetera, potremmo tornare anche ad altre gare. Insomma, quindi è un grave problema, lui dice che ci lavorerà, ma insomma mi sembra che qui ci stia un po' la differenza tra lui e Lorenzo. Sì, no? Cominciano a essere dettagli che fanno la differenza. I dettagli, proprio così. I dettagli. Anche perché la classifica dice oggi Rossi 118, Lorenzo 112, poi c'è una trincea, Dovizioso 83, Iannone 81 e poi Marquez 69, staccato di 49 lunghezze da Valentino Rossi. Ovviamente a questo punto si può ufficialmente parlare di crisi di Marc Marquez, io però mi rimetto a voi due esperti per capire se sia questione soltanto di testa o se c'è qualcosa che non funziona neanche in un feeling che non è scattato quest'anno con la Honda. Ma secondo me, si continua a minimizzare il mondiale di Marquez, cioè a dire ma sì, non ha problemi, ma prima o poi li risolve, ma la moto comunque è forte, ma lui è il più forte di tutti. Oggi si è sdraiato come un pilota qualunque in una situazione non difficile dopo aver fatto una gran gara molto forzata. Però forse sarebbe anche il caso di aprire un fascicolo Marquez, un caso Marquez, perché così in difficoltà non può essere. Mettici dentro tutto quello che vuoi, il recupero della Yamaha sulla Honda, però non ci sta un Marquez di questo tipo. Sono d'accordissimo, secondo me il problema fondamentale nasce dalla moto. Cioè la moto, vuoi per problemi suoi, vuoi perché appunto la Yamaha e la Ducati sono cresciute, insomma non ha più, no, il potere, diciamo il predominio tecnico che aveva l'anno scorso. Questo evidentemente ha un po', insomma, probabilmente innervosito, insomma, il ragazzo, che dopo due anni di dominio si è trovato a dover gestire i primi problemi. Succede, umano, a volte, no, anche il cosiddetto cannibale poi può perdere un po' la fame, la cattiveria, insomma tutto un insieme di cose, ed è vero che come è caduto oggi è un momento emblematico, no, di una crisi, tra l'altro una situazione schizofrenica, perché invece all'inizio ha fatto qualcosa di pazzesco, cioè se andiamo a rivedere le immagini della partenza, quello che ha fatto lui in piena follia, no? Cioè in piena trance da agonistica, ha rischiato tra l'altro di falciare, no, un paio di avversari, Pedrosa e Crutchlow mi pare, ma insomma ha fatto delle cose incredibili, veramente da stuntman più che da pilota. E allora lì arriva secondo in tre giri e poi cade così. Evidentemente il segno che quella forza mentale, continuità che aveva, non c'è. D'altra parte questo è uno sport, come dicevamo prima, di dettaglio, no? Di fragili equilibri. Pensiamo a Lorenzo alle prime tre gare, no? Due qua, due quinti, un quarto, mi sembra, o viceversa, cito a memoria, ma sì, due quarti e un quinto. E lo davamo quasi fuori dai giochi, no? Poi scattano questi click e uno rientra in gara. Io però ho i miei dubbi che Marquez possa fare lo stesso di Lorenzo, anche se Lorenzo e Rossi poco fa in conferenza hanno detto no, ma guardate che tornerà, sai, loro devono dirlo per diplomazia. Però io credo che sarà più difficile proprio per la moto, che comunque la Honda non è la Honda che eravamo abituati a conoscere. E quindi mentre Lorenzo ha potuto organizzare la sua rimonta grazie a una grande moto, che in questo momento è la moto migliore, insomma, e invece Marquez difficilmente lo potrà fare. Poi ragazzi, 59 punti sono tanti, con quei due davanti che vanno così diventa veramente difficile, secondo me. Se lo fa diventa difficile risalire, diventa anche per un fuoriclasse come lui. Grazie Alessandro. Grazie a voi ragazzi. Ciao. Grazie a Alessandro. Ciao, Pasini, 800 24 00 24. Poi ci tuffiamo nella mirabolante lunghissima vigilia di Juventus Barcellona. Jorge è in grandissima forma e sta guidando molto bene, mi sta recuperando dei punti e sono ancora davanti, ma lui è vicino. Però sai, ogni domenica, ogni weekend ha la sua storia e la settimana prossima c'è Barcellona, che è casa sua, ma è una pista che a me piace moltissimo e quindi dovremmo cercare di essere più bravi là. Tutti convocati. SMAU ti aspetta a Bologna. 4-5 giugno, Bologna Fiere. SMAU.it vi presenta... convocati. Quello che mi auguro sicuramente è di dormire qualche ora in più, perché di solito prima di impegni importanti fatico a dormire, però quando dormo poco penso tanto, a volte maturo delle idee anche buone. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Ma la sogna già di notte la finale di Berlino? Si è mai svegliato nel sonno immaginandosi all'Olympia Stadion? La notte dormo abbastanza serenamente, diciamo serenamente. Qual è l'idea di base, diciamo così, per cercare di annullarli, di togliergli la pericolosità? Di togliere la pericolosità è praticamente impossibile, bisogna cercare limitarli. Di limitare la loro pericolosità e soprattutto non pensare solo a quello, ma bisogna pensare a offendere, a giocare bene, a essere veloci, anche se, come ho detto tante volte, gioca molto diversamente da quando aveva Guardiola in panchina. Va Messi, entra tres, le tira un caño, le gana Valenciaga, va Messi, se mete en el área, para el gol, Messi, el arco, haga. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué genialidad, maestro Leo! ¡Leo, Leo, Leo, Leo, Leo! ¡Qué genio, qué animal, qué bestia competitiva! ¡Qué animal, qué bestia competitiva! Ya tenemos dos, ahora queremos la tercera. Entonces, soberbio será si conquistamos los tres. Esa es la mentalidad que yo creo que tiene el equipo y que tenemos en este club. E ora pensiamo alla partita, però manca ancora. Guarda, tanto domani ci riposiamo e poi da lunedì incominciamo la discesa verso Berlino. Io non so se ci credi che Allegri dorme bene, Carlo, tranquillo. Non messo solo il microfono, secondo sì, me no. Sì, secondo funziona, me sì, funziona. Perché ha molta fiducia nella sua squadra e fa molto bene ad averla, perché ha fatto il massimo possibile e lo sa perfettamente, perché il Barcellona è favorito, ma la Juventus è consapevole della sua forza, quindi io ci credo. Pier, ci credi? Ciao Pier. Come va? Ma no, credo che dorma bene, nel senso che poi alla fine mi verrebbe da dire comunque va, sarà un successo, non è così, però insomma... è chiaro che è una grandissima occasione, ma in ogni caso ha fatto pienamente il suo dovere, ha fatto meglio di quello che chiunque avrebbe immaginato all'inizio della stagione, per cui insomma sì, deve dormire tranquillo e sereno, con lo spirito di uno che va a cercare di fare il jackpot finale, ma che è già molto contento. E questo, ti dico la verità, l'ho visto ieri a Verona, abbiamo fatto un'intervista l'altro giorno, mi sembra il suo stato d'animo, non mi sembra certamente quello di un uomo ansioso in questo momento. Lo chiediamo anche a Max Nerozzi. Max, ciao. Ciao, Max. Ciao, buongiorno a tutti. Tu ci credi che dorme sereno? No? Nerozzi ieri si è presentato a Verona con insomma, ancora con la stampella, però per Berlino in che condizioni sei? Ma innanzitutto questa è privacy sulla salute, ma comunque. no, guarda, Allegri si dorme e non si registrano acquisti di Valeriano delle farmacie di Torino. L'unico che può usare farmaci calmanti è Marotta, che si prende 10 gocce di Lexotan prima dei grandi match. È l'unico che secondo me può, ma Allegri non avrà bisogno. Senti un po', ho visto il borsino oggi sulla stampa, cosa va, cosa non va, non ho capito alla fine da che parte pende la bilancia: ottimismo, pessimismo, serenità, un po' di preoccupazione. Secondo me la preoccupazione è normale perché incontrano la mia squadra del mondo. C'è un po' di curiosità secondo me perché i due uomini chiave, Pogba e Tevez, è da un mesetto che non fanno il partitone. Boh, magari capita sabato sera. Sì. Esatto. Sì, sì. Pogba però insomma comincia a diventare un punto di domanda. Non so quanto fosse vera la sgridata ieri di Allegri. Un po' era vera, ma secondo me è giusta anche la sua analisi. Io non penso che sia condizione fisica, perché ha recuperato pienamente dall'infortunio, corre, contrasta, non ha paura di mettere il piede, ma è un po' un fattore mentale. E secondo me non va dimenticato che alla fine si dice che il mercato, le voci non disturbano, però cioè, lui c'ha 22 anni, come succedeva anni fa, che ne so, a Balotelli si dicevano 5, 6, 7, 8 milioni all'anno. Insomma, Pogba, se non è di zona, gli raccontano, quindi lo sa benissimo che ci sono tutte le squadre d'Europa che lo stanno trattando. Secondo me non è facile rimanere tranquilli. Pier? Sì, ma assolutamente, guarda, le voci di mercato disturbano, è indiscutibile. Io penso che si stiano gestendo. Ieri ho avuto proprio la sensazione di alcuni giocatori che sono con la testa a Berlino e non c'è niente di male, francamente. A marzo di avvicinamento, dai, Pier, normale. Potrebbe essere pure un segno di intelligenza, sinceramente, di astuzia, insomma. Una delle caratteristiche fondamentali tra Juve di Allegri di quest'anno, l'abbiamo sottolineato spessissimo, è stato il non cercare il record a tutti i costi, non cercare sempre la furia agonistica, sempre la vittoria di goleada in ogni singola partita, sapere anche gestire certe situazioni. Penso a Cesena, penso a Udine, alcune volte alcuni pareggi che sono arrivati perché tanto non faceva male. E in fondo è lo stesso discorso, conta soltanto sabato. Secondo me la Juve arriva benissimo a questa partita. Poi ripeto, col Barça puoi perdere, è ovvio che puoi perdere, però ci arriva bene. Sì, soprattutto con il Barça, visto Messi di ieri sera, che credo sia il problema numero uno della Juventus in questo momento. Io non so se Conte, se Allegri abbia in mente qualcosa di particolare per Messi, se abbia deciso di giocarsela comunque a viso aperto. Max, non so nemmeno se oggi, vedendo le immagini della finale di Coppa del Re di ieri, abbia fatto qualche pensiero particolare. Secondo me su Messi, no in specifico, ma sulla squadra. Allegri ripete sempre che a lui le cose banali non piacciono, la vita banale lo annoierebbe, e l'ha dimostrato anche sul campo. Se ti ricordi, con Real Madrid, Sturaro al posto di Pereira, forse fu una piccola variazione, però risultò quasi decisiva l'andata. E io sono sicuro che Allegri giocherà 4-3-1-2, cioè il suo modo preferito. Sono quasi sicuro sugli uomini, però sono altrettanto sicuro che qualcosa escogiterà, perché fino adesso nelle partite che contavano, penso al cambio di modulo con Olympiacos in casa che era fondamentale per il girone, penso al Real Madrid, penso alla partita con la Roma, con la Lazio, qualcosina di suo c'era sempre messo, e non abbiamo ancora scoperto, non so se scopriremo cosa sarà la novità, però qualcosina combinerà, perché non può presentarsi banale, ecco, davanti al Barcellona. Posso farvi sentire Garcia di ieri, piccolo estratto di una conferenza stampa in cui secondo me Garcia ha detto una verità, cioè che qualcosa l'UEFA dovrà fare, perché così si rischia di uccidere i campionati nazionali, e la Serie A è un esempio, ma non è l'unico. Però ha detto anche qualcosa di interessante sulla Juventus e in generale su questa e sulla prossima stagione. Ve lo faccio sentire. Non c'è rischio, secondo lei, un po' come avviene in Bundesliga con il Bayern Monaco, che si giochi in Italia solo per il secondo posto? Lo penso anch'io, penso che il gap sarà ancora superiore l'anno prossimo. Come l'ho detto, loro hanno anche la possibilità di vincere la Champions League, sono andato in finale, vuol dire che hanno anche preso tanti soldi della Champions League, hanno già, come lo dico, il loro stadio. Questo Garcia ieri, io non so cosa ne pensate voi, Max. Io penso che abbia ragione, tu anche tu sei bravo nei conti, la Juve farà tombola in ogni caso, perde o vince la Champions League. E poi l'altro giorno parlavamo con Branchini, che è uno che sta su magari 30 anni, e giustamente diceva: se vuoi fare concorrenza alla Juve devi iniziare a prendere i giocatori bravi o quelli futuribili. Se la Juve vince per distacco lo scudetto, si prende Dybala, che forse insieme ai Cari è il miglior centravanti d'Italia, si prende Rugani, che a detta di tutti è il miglior difensore d'Italia a 20 anni, ha già giocatori 19, 20, 21 anni, la vedo dura, prende Khedira a zero, e permettendosi di sbagliare, perché anche se Khedira, vedremo come starà fisicamente, ma toppa, la Juve può permettersi. Ma se loro sono più bravi, si sono strutturati, hanno costruito un'organizzazione che funziona, non c'è altro da fare se non farsi un mazzo così e provare a stargli dietro con il tempo e con pazienza. Sì, e soprattutto la Roma quest'anno, che era la più vicina dal punto di vista del mercato e della programmazione, ha sbagliato parecchio. E quindi è chiaro che i Turbe non è quello che abbiamo visto quest'anno, e magari il Golden Derby servirà proprio per rinascere, però ho dei dubbi sul fatto che quell'investimento comunque si ripagherà, per non parlare di Barbo e di altre cose. Per questo mi sembra che la Roma sia molto indietro, però c'è un secondo tema, cioè c'è una via di mezzo fra i programmi di Mancini, che dice che l'Inter se la gioca alla pari, e quello che dice García. García è l'allenatore della squadra seconda in classifica, è un allenatore che all'inizio di ottobre diceva che la Roma avrebbe vinto il campionato. Io so che queste sue dichiarazioni non sono state molto apprezzate da alcuni dirigenti della Roma. Fanno anche un po' rottura. Fanno anche un po' rottura, poi avremo tempo per parlarne. Intanto fammi salutare Max Nerozzi. Ciao Max, grazie. Ciao, buon pomeriggio a voi, ciao, grazie. Ciao Max, ciao, alla prossima. Ci fermiamo, c'è il meteo, poi torniamo. Ciao, sono Alex Del Piero. Il mio segreto a 40 anni, fare tanta plin plin. Spero invece che sabato il Barcellona faccia plon plon. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Tutti convocati. Rieccoci, 800 24 00 24, e io ringrazio il presidente federale Carlo Tavecchio. Buon pomeriggio. Buonasera, presidente. Buon pomeriggio. Buonasera. Lo ringrazio. Buonasera. Perché ha voluto mantenere fede a una promessa fatta, a un accordo fatto in tempi non sospetti. Pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda. Noi eravamo d'accordo oggi per fare questo intervento, poi in mezzo è stata una settimana che insomma evidentemente avete letto tutti sui giornali. Solo con voi, lo so, e la ringraziamo. Noi eravamo d'accordo perché questa è stata la settimana del grande impatto emozionale del trentennale dell'Eisel, sì, sì, che il presidente federale ha ricordato in questa settimana, sì. E che insomma noi la considerazione che facciamo è che purtroppo continua a essere una tragedia che divide, oltre che a suscitare grandi emozioni, e questo è un peccato, presidente. Guardi, io per dirle come sento il problema della sicurezza negli stadi, l'ho posto sempre agli ordini del giorno della Lega Dilettanti degli stadi piccoli dove c'è sicurezza in primo grado e violenza. La tragedia dell'Eisel l'abbiamo ricordata con un minuto di raccoglimento in Consiglio federale, che praticamente era per dare il giusto peso a una tragedia che, unica nella storia del calcio, ha procurato ha procurato 39 morti, e questo non può essere che di monito per le generazioni, per tutti, a cambiare atteggiamenti, solo che non credo che siamo ancora a un buon punto. È vero che a novembre andrete in Belgio a quello che fu l'Eisel, sì, oggi si chiama Stadio Re Baldovino. Una partita del ricordo a novembre, nelle ipotesi che abbiamo, con la Federazione Belga. Io mi auguro che questo avvenga per dare il ricordo e un segnale alle giovani generazioni. Io so che lei ha analizzato anche, gira una petizione fatta dall'Associazione dei Familiari delle Vittime, che chiedono un gesto simbolico per l'Eisel, ma non solo, un po' per tutti. Ma guardi, chiedevano di ritirare la maglia 39 della nazionale, che non c'è. Io sono anche d'accordo su questa. Adesso la porterò quando sarà formalizzata. Lasciamo passare questi momenti che abbiamo per la qualificazione, poi la porterò al Consiglio federale. Quindi c'è la possibilità, e ripeto, è un gesto simbolico, perché non ricordo che mai la nazionale abbia giocato col 39. Sì, però sì, che dà il senso di un ricordo di grande commozione, di grande, un ricordo storico, insomma. Questo deve essere un gesto che unisce, perché poi 39 ci sono non solo le vittime juventine, c'è dentro tutto, quindi cioè, l'augurio è che sia un gesto che unisce. Noi lo rubiamo ancora un minuto. Io so che lei ieri ha fatto con quella nota dell'Ansa in cui spiega di aver votato per l'avversario di Blatter, e perché insomma, spera di proiettare la Federcalcio e non solo nel futuro. Ma guardi, l'analisi è molto semplice, è un'analisi anche, se mi permette, interessata. Io ho fatto praticamente una valutazione del momento politico. Io non posso giudicare se i fatti intercorsi il giorno prima, FBI, Stati Uniti, Russia, operazione di verifica e di controllo, sono legali o meno. Io credo che quello che emergerà sarà oggetto di processi e qualcuno dovrà rispondere. Ma il problema è un altro, che noi non possiamo, in un momento di assoluta pulizia e di inter- conseguenti per la chiarezza nei comportamenti, accettare che si vada ad una situazione di mancato controllo, come è stato, come lo sarà. E quindi abbiamo impostato un discorso insieme alla Confederazione dell'UEFA. A prescindere dal presidente che incarica la FIFA, noi l'UEFA ha dichiarato 46 su 56 che l'indirizzo dell'UEFA era per un'alternativa, un cambiamento. E se io guardo egoisticamente la posizione italiana ha davanti un decennio di rapporti particolari con la UEFA per la Champions, per l'Europa League, per i cambiamenti in atto, e ha davanti anche una prospettiva dove il candidato dell'UEFA si candiderà alla FIFA, io penso, ed sì, è Platini. Quindi sì, la valutazione però politica non poteva che andare lì, quindi io mi sono comportato conseguentemente. Certo, c'è anche Pierluigi Pardo, c'è Carlo Genta, c'è anche tanta carne al fuoco, perché oggi ad esempio ho letto che Conte vorrebbe rinnovare fino al 2018, Pier. Che succede con Conte? No, guardi, vogliamo mettere in chiaro questa faccenda. Eravamo alla partita a Roma e parlavamo del più del meno. Conte dice: ma Presidente, la fiducia che abbiamo noi è se noi, io sto volentieri anche altri 2 anni. Io ci siamo dati la mano dicendo... Io ben lieto, lei lo sa cosa ho fatto io, carte false per avere Conte, ma io posso impegnarmi per il periodo di mia presidenza, non posso impegnarmi per quando non sarò o sarò presidente, lo vedremo dopo. Però si continuano a sentire discorsi di Conte incerto, per di Conte quanto mi riguarda, Conte è affezionato alla nazionale ed è un tifoso della nazionale ed è una persona che in questo momento ha l'interesse primario per i colori azzurri. Ma l'ipotesi che possa andare a processo per la questione di Cremona del calcio scommesse nei mesi dell'europeo, dell'ultima preparazione, provoca imbarazzo. Io non voglio fare riflessioni per conto terzi, ma in Italia e nel mondo quante persone hanno situazioni che devono chiarire, anche se involontariamente o volontariamente con la giustizia, ma non vedo cosa c'entri sulla preparazione, sul lavoro che sta facendo, nessuno gli fa problemi. Assolutamente. Presidente, come finisce a Parma? Poi volevo capire il progetto di riforma delle 18 squadre. Insomma. Guardi, io sono intervenuto anche ieri, è stata una giornata intensa con il Parma. Il motivo è molto semplice. Volevano e sono state date anche delle garanzie morali che la valutazione del debito sportivo sarà fatta dalla federazione, da sottoscritto, di concerto con i curatori, di concerto con i calciatori, di concerto con lo staff e l'allenatore. Quando avremo davanti il soggetto che intende comprare e quando sarà un momento chiaro dove si dirà questo è l'importo che ci vuole, lo tratteremo. Io in questo momento, dal punto di vista della legalità, la Lega di Milano ha mandato questa lettera che pretende in un'eventualità che succedesse un acquisto successivo il reintegro della cifra anticipata, ma questo sarà un discorso che vedremo in sede di trattativa e in sede di soluzione generale del problema. Io credo che la federazione, che stabilirà lei qual è il debito sportivo, terrà conto delle necessità che questa area, questo territorio abbia la possibilità di avere una squadra in Serie B. Io sarò ben lieto di favorirli sotto tutti gli aspetti. Quindi ancora ottimista, questo ci pare di capire. Un po' meno forse sulla riforma 18, che mi pare abbia tempi più lunghi di quelli che lei immaginava. Dunque, io ho chiesto di portare al 14 di agosto la possibilità delle trattative, perché a parte il discorso economico, pare che adesso ci sia una intesa sulle due retrocessioni secche dalla A alla B, e questo è già un primo risultato. Portarle da 20 a 18 e da 22 a 20. Poi c'è il problema della Lega Pro, se facciamo i ripescaggi o non facciamo i ripescaggi. Quest'anno, anche perché i tempi sono vicinissimi, non si può bloccare i ripescaggi. Si faranno però con dei paletti notevoli. Lei faccia conto che per giocare in Lega Pro, chi viene ripescato dovrà pagare, se così delibereremo, questa è l'ipotesi, 600.000 euro di cash e 600.000 euro di fideiussione. Sono pochi che possono permetterselo, e quindi ci sarà una selezione naturale di 7.500, in più dovrà avere 500 lux di di luce sul campo. Sono paletti notevoli che però vanno verso una modernizzazione, una regolarizzazione del sistema sportivo italiano, così come le procedure che abbiamo fatto per quanto riguarda la riforma economica. Sì, il fair play finanziario italiano. Sì, adesso si passerà attraverso un'estate caldissima comunque, Presidente, che è già cominciata da quelle parti. Io venivo da un mondo tranquillo, ogni giorno ne succede una, però vedo di far fronte con quello che posso, con la competenza, l'impegno e il senso del dovere verso questa federazione che tutto sommato è una federazione importante nell'arringo mondiale. È soddisfatto del suo primo anno, insomma, lei sa che... Pronto? È soddisfatto, chiede Pardo, del suo primo anno? Sono contento di quello che ho fatto. Se lei guarda l'analisi e i risultati, perché non voglio fare nessuna riflessione contro i giornalisti, hanno un po' di memoria corta. Io l'ultimo consiglio ho elencato i 20 provvedimenti adottati che partono dalle Rosa 25, che partono dei soggetti stranieri che in Italia vengono e hanno l'obbligo di fare 4 anni di studi per poter essere messi nel circolo. Guardo il fair play finanziario, guardo le 3 norme che riguardano l'economia, guardo i settori giovanili e scolastici. Adesso stiamo facendo la riforma dei campionati. Con tutto il rispetto, io ho dato quello che potevo al massimo. Naturalmente l'analisi e la valutazione non è mia. Le rubo gli ultimi 30 secondi. Va a Berlino domenica, per sabato, sì, per la finale della Juventus. Vado a Berlino a tifare Juve. Va a Berlino a tifare Juve. Magari parla con Agnelli anche di altri argomenti o non è il momento, vi risentirete poi. Ho parlato con Agnelli il giorno della finale della Coppa Italia e abbiamo trovato un'intesa su parecchi problemi. E credo che prima dell'inizio del campionato risolveremo anche l'annosa questione della denuncia. Quindi ci sta dando una novità non da poco. Quindi certo. C'è un accordo con la Juventus sulla questione dell'esposto al TAR. Tratteremo una questione. Tratterete la questione, però insomma siete d'accordo che è arrivato il momento di trovare una soluzione. Grazie Presidente. Prego. Grazie. Buonasera. Grazie Presidente Tavecchio. Traffico, così poi ne parliamo. 800 24 00 24. Tutti convocati. Monge, crocchette e patè per cani e gatti, con tanta carne fresca italiana. Vi presenta. Tutti convocati. Poi se si crede in me, si va avanti, se no la società, insomma, valuterà. Io sono molto molto sereno, sono felice di quello che mi ha dato questa squadra. Nelle difficoltà, quando dai tutto te stesso, probabilmente entri nel cuore della gente ed è quella la cosa più bella per cui uno lavora. Vado avanti per la mia strada, questo lavoro bellissimo, mi piace, piano piano insomma mi darà grandissime soddisfazioni. Qui è da dove bisogna ripartire. Si è capito che ora il Milan gioca a calcio, ha un gioco, e bene, è bene per la società che ha visto che comunque la squadra c'è. Questo Inzaghi di ieri sera, abbiamo Enrico Curro di Repubblica che saluto. Ciao Enrico. Ciao. Pier, ci sei? Poi magari commentiamo anche il Tavecchio. Poi commentiamo Tavecchio con Enrico, perché ci ha dato un paio di spunti di notizie, no, non da poco. Ma soprattutto, scusa, ti dico una cosa in 30 secondi. Mi sembra che in questi 10 mesi abbia combattuto l'immagine di un uomo di retroguardia, anziano, legato a vecchi poteri. Anche il discorso comunque di non aver votato per Blatter è un discorso che va in questa direzione, oltre alla riforma dei campionati e a tante altre cose. Insomma, io credo sinceramente che lo dovremmo valutare, lo dovremmo continuare a valutare giorno per giorno, giudicarlo nel bene o nel male a seconda di quello che farà. Però certamente rispetto ai peggiori presentimenti che c'erano stati a fronte di quella battuta irricevibile, completamente sbagliata, abbiamo detto mille volte, e a certi elementi, sicuramente non era una figura di spicco, sicuramente non aveva l'allure, no, il fascino di un grande uomo di sport, però mi sembra di poter dire che poi nella realtà dei fatti sia molto più innovatore lui di tanti quarantenni, e questo in generale del mondo, della vita, no? Le cose le sta facendo, di tanti cinquantenni, di tanti sessantenni, quindi questo mi sembra che gli vada riconosciuto. Sì, lui ha spiegato, andare contro Blatter in questa occasione è un tentativo di posizionare il calcio, insomma, italiano siccome sul carro che vincerà buona parte, poi. Buona parte giustamente, insomma, la condivido anche, no, della del fastidio di pancia che tutti noi abbiamo nei confronti di Blatter in questo momento in qualche modo è simile a quello che c'era in quel momento, ed è questo bisogno di cambiamento. Oggi c'è un pezzettino di Serra sullo stesso giornale di Currò, molto interessante secondo me sull'aspetto più strettamente di rappresentazione sociale che c'è nella FIFA, cioè il fatto che tutti questi diari della FIFA sono tutti marchi, sono tutti anziani, molto spesso non hanno mai giocato a pallone, cioè un mondo che sembra veramente antico, veramente di retroguardia. Il sentimento è abbastanza simile a quello che c'era l'estate scorsa quando ci fu quel clamoroso errore di quella clamorosa battuta, però mi sembra che i risultati invece, l'innovazione da parte di questo dirigente che siano stati, ha scelto Conte che comunque era il migliore che poteva prendere sul piazza in quel momento, facendolo pagare in massima parte allo sponsor e senza avere ingerenze, tant'è vero che Balotelli è sempre rimasto a casa. Ha proposto la riforma 18 squadre, sì, del campionato. C'è stata dell'attività. Fiona May che gira l'Italia per sensibilizzare sul razzismo, poi ci riuscirà o non ci riuscirà, ma insomma non mi sembra onestamente che questo debba essere sottovalutato. Sì, io chiedo un brevissimo commento di Enrico Curro, poi voglio anche sapere cosa succede al Milan, perché oggi Repubblica ha gettato il panico scrivendo che se non arriva Ancelotti c'è Brocchi con Lippi. Prego Enrico. Allora, su quello che ha detto Pierluigi mi permetto di dissentire un po', nel senso che è verissimo quello che dice lui, ma penso che non fosse poi così facile in una circostanza del genere votare per Blatter. Io capovolgo, perché avrebbe dovuto votare c'è per chi Blatter? L'ha fatto, c'è chi l'ha io fatto, so, con questo francesi, gli spagnoli, questo russi, è un punto, forse Enrico, i tedeschi, UEFA divisa. Questa no, è il peccato pure, però insomma, non è che abbia fatto poi un gesto di partita, ha fatto un gesto secondo me dovuto. In quanto al resto, credo che ci sia anche un altro aspetto delle cose che ha detto Pierluigi. Nobilissima l'idea delle riforme, molto meno immobilismo di quello che sospettavamo, però io invito a riflettere su un dato. Quando si dice che uno fa le riforme, è bellissimo che si facciano, però bisogna vedere il contenuto di queste riforme, perché non è che il fatto solo di fare le riforme di per sé significhi che uno sta agendo bene. Certo, è meglio farle che non farle, ma bisogna vederne il contenuto, perché poi molto spesso le riforme possono essere peggiori dello status quo. Con questo non voglio entrare nello specifico e condannare le riforme che sta facendo o che farà Tavecchio, ma invito a guardarle con attenzione, perché molto spesso nelle riforme si possono annidare anche poi dei cavilli o delle situazioni che favoriscono qualcuno piuttosto che altri e che sviliscono il fatto di averle appunto concordate. Comunque di sicuro diciamo che questa Federcalcio ha abbastanza i riflettori puntati, e questo è un bene, perché va tutto ovviamente passato a setaccio. Ci sono rimasti un paio di minuti, ci racconti cosa succede al Milan? Perché ripeto, oggi Repubblica scrive: se non arriva Ancelotti, il ticket è Brocchi Lippi, mi risulta che ci sia stata una rivoluzione. Guarda, in realtà non l'abbiamo scritto solo noi, l'hanno scritto anche altri. È una notizia che è vera, nel senso che tra i candidati, tra i possibili candidati, ci sono Montella, e non è una novità. C'è Donadoni, che è stato sponsorizzato molto da Ancelotti nel colloquio con Galliani e che non si capisce perché non venga mai preso seriamente in considerazione, e poi c'è anche questo ticket di cui hai parlato tu, Lippi Brocchi. Naturalmente ognuno di questi profili contiene delle premesse diverse, nel senso che per esempio Montella postula evidentemente un investimento di un certo tipo, e Brocchi Lippi probabilmente un altro, ma non si può comunque prescindere prescindere, scusate il gioco di parole, dall'allenatore che verrà scelto dallo spendere. Questo il Milan lo sa bene. Credo che questo Enrico sia il punto, arriveranno i soldi, ma è chiaro che è una condizione assolutamente. Io continuo a pensare che tutti i discorsi che possiamo fare sono tutti belli, sono tutti giusti e anche interessanti, però fino a quando non ci sarà la certezza che Berlusconi andrà avanti da solo o che cederà la squadra in modo ufficiale e definitivo, E certo saranno un po' tutti i discorsi che lasciano il tempo che trovano. Sicuro, assolutamente è così. Mi pare che il dato di fatto di partenza sia che bisogna almeno investire 300 milioni se si vuole tornare, calcolando anche il deficit e calcolando i debiti con le banche e calcolando appunto gli investimenti da fare sul mercato, se si vuole tornare a un Milan che sia tra le prime squadre d'Europa. Se no, si può fare un discorso molto più onesto, che in questi anni non è stato fatto, cioè ci vuole tempo per ricostruire, si deve partire da altri presupposti e si può fare anche questo discorso, ma bisogna dirlo ai tifosi. Se no, si rischia di vivacchiare. Grazie Enrico. Ciao Eri. A voi, grazie. Ciao. Grazie Enrico Curro di Repubblica. Pronto? C'è la corruzione ovunque, troppo marcio, troppo business, troppo stress. Arrigo, ci sente? Sento sì. Delle voci, forse no. È la voce della mia coscienza che mi impone massima allerta e mi sta dicendo siamo Arrigo, quelli di tutti convocati weekend. No, Arrigo, tutti convocati weekend, Radio 24. Anche l'ultima illusione sparisse, non esiste neppure la coscienza, solo corruzione. No, ce lo stiamo un po' perdendo. Ma l'ha impressionata insomma tutte queste cose di Blatter, della FIFA, tutto. Io ho letto recentemente uno studio che rivela come i costi della corruzione nell'ambito dell'Unione Europea ammontino a 120 miliardi di euro, 60 dei quali sono responsabilità dell'Italia. Beh, non è che siamo gli unici a rubare. Non faccia la punta al gonzo, basta guardare un punto, guadagnare un punto e arriviamo al 51% della corruzione europea. Possiamo fare anche discorsi di macroeconomia. Corruzione. Arrigo, ieri il Milan ha vinto il Milan, contento almeno quello. Sì, ma sono tutti negri. La Juve, allora vince la Juve sabato la Champions. E intanto c'è Allegri che mi sta sulle palle. E poi solo sentendo pronunciare Messi, già percepisci il pericolo. No, ma non si riesce a farlo fare l'ottimista. Grazie Arrigo, arrivederci. 800 24 00 24. Ragazzi, ci sono tra poco, tutti convocati weekend, 800 24 00 24. Se becchiamo tra poco, Tutti convocati. Tutti convocati. 800 24 00 24. Pier, ti do l'elenco. No, Pier non c'è, adesso lo recuperiamo. Beh, lo do a Carlo, lo do a tutti voi. L'elenco dei convocati per lo stage della nazionale. Sono 34 intanto, ovviamente non ci sono i giocatori della Juventus che hanno altro da fare nei prossimi giorni. C'è però qualche sorpresa, c'è Nicola Sansone, attaccante del Sassuolo, e ad esempio non c'è Berardi. E questa è un'indicazione, è impegnato con l'Under 21. La conosce già a sufficienza. C'è Caligiuri del Wolfsburg. Questo è strano, questo mi sorprende già di più. Mi sorprende più di Sansone. Caligiuri, sappiamo, attaccante di stazza, non è un fenomeno, ha fatto una buona stagione, non credo sia il giocatore in grado di far fare Tomora alla nazionale, però Conte avrà voglia di vederlo. Sì, continua la ricerca di un attaccante. Pier, cosa ne pensi? A me Caligiuri piace, nel senso che è comunque ha fatto una bella stagione al Wolfsburg, che qualificata per la Champions League, fresca vincitrice della Coppa di Germania, può fare l'esterno nel 4-2-3-1 alle spalle della punta centrale. Sono i tifosi stage che Conte voleva tanto e che comunque saranno utili per creare un certo tipo di spirito di gruppo. Una grande occasione per tanti per potersi affermare, per poter conquistare posizioni. Il blocco della nazionale rimane un blocco molto bianco-nero, in questo momento non potrebbe essere altrimenti alla luce dei risultati della Juve, però è un'occasione, ma per noi magari sembra un momento così, diciamo, secondario, ma per i diretti interessati non lo è certamente. Sì, poi torna Padelli, torna Crescito, sarà aggregato anche il portiere della nazionale Under 19, che è il terzo portiere dell'Udinese, Meret, che oggi è in panchina in questo momento in Cagliari-Udinese, e che tutti dicono essere il portiere italiano del futuro. 800 24 00 24. Bruno da Verona. Pronto, buonasera. Eccoci Bruno. Salve. Vi disturbo, io premetto che sono un simpatizzante veronese e soprattutto un tifoso juventino. Quindi ieri si è divertito. Mi sono divertito dopo tanti anni, sono tornato allo stadio e veramente volevo una testimonianza dare che ho trovato una tifoseria di inciviltà incredibile. Inciviltà? Allora, inciviltà. Io volevo chiedere a voi, perché io ho visto togliere delle maglie della Juventus a dei bambini, cioè credo, non so se sia normale o meno una cosa del genere. Non è normale Piero, ma l'abbiamo già sentito purtroppo. La percezione, sinceramente, io ho portato tante persone che mi sembravano per bene, ho fatto le foto, certo, però hai ragione secondo me l'ascoltatore, spesso ci siamo abituati a delle piccole prevaricazioni della libertà delle persone che accettiamo come qualcosa di dovuto, come una piccola precauzione, per esempio togliersi la maglia di una squadra avversaria, togliersi la sciarpa, già quella è una violenza in qualche modo inaccettabile, nel senso bisognerebbe tollerare e considerare l'avversario come qualcuno non da ferire, non da insultare. Questo, da questo punto di vista, non so farti la gradazione, non so dirti se ieri si andrà peggio o meglio di altre volte in altre partite in Italia, però è vero, dal punto di vista culturale ha ragione. Insomma, è assurdo che un bambino non possa mettersi la maglia del suo campione preferito, la sciarpa. È una forma di follia, no? Veramente di follia. Però ripeto, poi non so dirti se ieri non ho il polso, il termometro della situazione. In ogni caso, sono cose che abbiamo già vissuto, abbiamo già raccontato. Ne parlavamo anche prima col presidente Tavecchio. Questo resta comunque un problema italiano. E a maggior ragione, io spero davvero che poi vada in porto questa proposta che Tavecchio porterà, cioè di fare questo gesto simbolico di ritirare la maglia numero 39 della nazionale in ricordo delle vittime dell'Eisel, ma come gesto che deve unire, perché dentro c'è tutto, poi c'è il ricordo anche degli altri, gesti non solo simbolici. Però posso dire, delle vittime gesti Giovanni, simbolici vanno benissimo, Pier, vanno benissimo, però fino a quando non cambiano concretamente i comportamenti, io credo che purtroppo, voglio essere pessimista, come spesso mi capita, anche dopo questo eventuale gesto simbolico continueremo a sentire qui e là sparpagliati in ordine sparso certi cori, quindi devono cambiare i comportamenti, i gesti simbolici vanno benissimo, che altro devono, fare? Devono cambiare i comportamenti e ci vuole un mix di prevenzione, quindi di cultura e di provvedimenti molto precisi, perché alla fine certi atteggiamenti si puniscono soltanto con le soluzioni materiali, cioè arrestando le persone o creando delle sanzioni economiche a chi delinque. Insomma, non sono un giurista, non faccio il giurista, però mi sembra semplice da questo punto di vista. Devo dire che l'Aisel ad oggi divide soltanto i cretini, gli scemi, nel senso che chi espone, ma vale per l'Aisel come vale per Superga, per Pavarelli o per tutte le tragedie che abbiamo vissuto, chi insulta la memoria è un cretino, punto. Cioè, fine dei discorsi, fine dei giochi, e forse ha ragione chi pensa che tiriamo certe volte anche per dargli troppo spazio mediaticamente, anche se poi noi giornalisti siamo in una situazione che spesso ci viene detto, ma perché mostrate queste cose, ma così in qualche modo favorite l'emulazione, ed è vero, vi ricordate il periodo dei sassi dal cavalcavia, no? Improvvisamente tutti i matti tiravano i sassi dal cavalcavia perché c'era questo effetto emulazione, però è anche vero che non parlare delle cose significa non fare il nostro lavoro, cioè significa non parlare di qualcosa di cui poi si parla inevitabilmente in giro, per cui quando vediamo gli espressioni orrendi sull'Aisel o su Superga, io credo che l'unica soluzione sia parlarne, però far sì veramente che chi deve invece arrestare le persone, impedirgli di delinquere, si può delinquere anche con la parola, perché insultare la memoria di persone morte per una tragedia del genere è un insulto altrettanto grave della violenza fisica. Sì, vuol dire essere sul gradino più basso della scala. Gianluca dalla provincia di Ragusa. Gianluca. Pronto, buonasera. Volevo fare una domanda in diretta a Carlo Genzi. Sì, è qua. Pronto? Sì, sono qui. Io ho sentito nei giorni scorsi che lei non crede al ritorno di Ancelotti a Milan. Anche per me sarebbe una situazione un po' complicata. Però attenzione alla risposta che gli darà il suo medico dopo l'operazione alla cervicale. Io credo che, come ha detto Franco Ordine venerdì, credo che se i tempi saranno minimi, credo che Berlusconi faccia di tutto per riportarlo a Milanello. E poi un'altra domanda. Dopo questa annata gloriosa per le coppe europee dell'Italia, come potrebbe cambiare il ranking UEFA per nazione dopo la finale di Champions League? Cambia, questo rispondo io, la finale sposta poco o nulla dal punto di vista del ranking UEFA. Questa è stata una stagione da record e lo resterà a prescindere, anche dovesse andare male alla Juventus. Ci avvicina notevolmente alla Germania, ma soprattutto all'Inghilterra, sì. E quindi da qui a 18-24 mesi noi possiamo fare finalmente gara pari con gli inglesi per pensare di tornare al terzo posto. La svolta ce l'ha data l'Europa League. Se le squadre italiane affronteranno l'Europa League con lo stesso atteggiamento che hanno avuto quest'anno, al di là del fatto che poi in semifinale è andata male con mille rimpianti, soprattutto per il Napoli, se la affronteranno con il rispetto che questa competizione merita, e da adesso io non sono più un telecronista dell'Europa League, quindi non sto parlando di un discorso perché mi conviene, ma perché trovo assurdo che la Coppa UEFA sia stata così bistrattata dal calcio italiano negli anni come se fosse una coppetta. Se il calcio italiano avrà la forza di andare avanti da questo punto di vista, allora i risultati arriveranno, perché il ranking dipende da lì, il ranking è 50-50, e siccome è 50-50, ma una coppa è sicuramente più facile, più alla portata dell'altra, tant'è vero che il Dnipro arriva in finale, il Champions non ci sarebbe mai arrivato in finale, vuol dire che lì noi possiamo, se l'affrontiamo con impegno, veramente fare la differenza, e fra due anni abbiamo di nuovo le quattro squadre. Aspetta, su Ancelotti, aspetta il traffico prima di rispondere. Va bene. Traffico. Tutti convocati. Regione Emilia-Romagna ti aspetta a Research to Business, 4-5 giugno, Bologna Fiere. Vi presenta... Tutti convocati. Arriva o no Carletto? No. Abbiamo avuto Franco Ordine che ha spiegato i perché e per come di tutta questa vicenda, ora assicurerà, io non credo che possa arrivare al Milan, quindi semplicemente, ma torno a ripetere, sono tutti discorsi prematuri fino a quando Berlusconi non dirà esattamente chiudo la porta a tutti e vado avanti io, oppure emetto questi soldi per fare il mercato, rinforzare la squadra. I primi segnali non mi sembrano un granché quando comincia a parlare di squadra che già quest'anno non era male, quindi oppure cederà al miglior offerente, che potrebbe di nuovo essere B, ma non è ancora avvenuto, quindi fino a quel momento dossier che si riapriranno, c'è l'impressione da martedì mattina. C'è Marcello dalla provincia di Belluno, gli chiedo però un istante di pazienza. Saluto Risto Beccalossi, ciao Becca. Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Convocato per fare anche lui gli auguri al presidente Toier. Tanti auguri. Senti qua. Presidente, parabéns. Tanti auguri e buon compleanno. A very happy birthday. Feliz cumpleaños, presidente Toir. Pasará lindo. Happy birthday, president. Selama tulang tahun. I wish you all the best. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. Tohiri. Happy birthday, Mr. President. Tanti auguri, presidente. Forza Inter. Beh, che devi fargli in bresciano però, Glieli fai o no gli auguri? Lo faccio in dialetto bresciano. Sì, dai. Presidente, auguri. Fammi una grande Inter. No, fammi una grande Inter. È stata una settimana. No, scherzi. Da aggiungere alla carrellata. No, è stata una settimana un po' difficile per Toir, questa Becca. Io non ho capito che cosa ha di male Toir. Questa settimana l'ha attaccato lo sponsor, che poi è Pirelli Tronchetti Provera, che vuol dire qualcosa a Milano. C'è stata l'inchiesta del Corriere della Sera sulle Cayman, le scatole cinesi, ci sono le difficoltà di mercato, anche oggi c'è la conferma dell'agente di Yaya Touré che non c'è possibilità di vederlo a Milano. E quindi attendiamo con grande pazienza. So che ci ha messo tanto impegno, so che ha intenzione di costruire una grande Inter per poter cercare di portare a questi livelli, e mi ha stupito un po' anche a me certe situazioni, però io credo che quando uno diventa presidente dell'Inter, insomma, sia pronto e sappia cosa può andare incontro, cioè, quindi la gente, gli addetti ai lavori sia convinti di fare bene, quindi aspettiamo. E all'interno so che si sta muovendo bene, non riesco a capire quello che probabilmente all'esterno ognuno fa il proprio lavoro, si fa a vedere tutto, però per quel poco tanto che conosco io so che ha intenzione di portare l'Inter a grandi livelli. Tu Pier, ti sei fatto un'idea del perché non piaccia alla gente che piace? Ma c'è sicuramente una parte del mondo nell'azzurro che ha vissuto, una parte più porattiana che ha vissuto Toir come più che come uno, sì, sicuramente come un'opportunità, perché insomma comunque i soldi li ha investiti, ha alleggerito di possibili perdite, però certamente come altro da sé, no? È ovvio che questa è una gestione che viene da fuori, quindi c'è una parte legittima del mondo dell'azzurro che gli interessi dell'azzurro, magari gli interessi di Lucia Moratti, che può avere qualche dubbio, che magari preferirebbe altre soluzioni. Quindi questo dal punto di vista così complessivo, ambientale, mi sembra il tipo di clima. Poi alcune difficoltà oggettive ci sono sicuramente, se gli aiutori viene o non viene non è che dipende dal Corriere della Sera, faccio per dire, su quella inchiesta, il fatto di aver diciamo prestato dei soldi all'Inter a un tasso di interesse che non è esattamente un regalo, è un tema sicuramente interessante. Non so dirti se appartiene a una forma di finanziamento così l'hanno fatto in tanti, non è una cosa così illogica, poi vedremo se come tanti altri lascerà i soldi in società. Questo è no, assolutamente, si parla di volontà di investire nell'Inter, si parla di volontà di avere un progetto per riportare l'Inter là dove è stata anche recentemente. L'unico che vota la fiducia e che continua a crederci è Mancini, ve lo faccio sentire ieri. Il mercato è fondamentale, ma io resterò al 100%, comunque, ma il mercato è... Ma non è perché solo io voglio che la squadra migliori, ma credo che sia proprio il presidente che vuole questo e tutte le persone che lavorano nel club vogliono questo, quindi io penso che il presidente farà di tutto. Io non credo che un presidente, una persona come tu, compri l'Inter così tanto per... Così parlò Mancini. Che voto dai a Mancini? Becca, possiamo anche arrivare ai bilanci, a meno che stasera la Sampdoria non si suicidi. Voto basso. Direi che la stagione è così, senza Europa. Non può essere alto. Trovato, se guardiamo il risultato, è chiaro che tutti pensavamo di fare sicuramente meglio, però il cammino è stato intrapreso in un calcio diverso da chi c'era prima. È chiaro che ci si aspettava di poter risalire e andare in Europa lì. Però ecco, volevo aggiungere una cosa, io credo che Mancini abbia conosciuto Moratti, quindi 4 anni stupendi dove si è raggiunto risultati importanti. Conosce Toir, sbilanciandosi, che rimane al 100% appunto, credo che abbia avuto anche delle garanzie per fare una squadra competitiva. E questo mi dà sicurezza, perché altrimenti sarebbe... Così, per come è stato impostato il futuro, io credo che si possa fare bene e la società si muoverà. Resta, mi pare, pensiero. Mancini la garanzia, Pier, oggi dei tifosi interisti, al di là delle parole di Toir, delle lettere, di tante mille discorsi. È un uomo che sembra sempre un po' in campagna elettorale, no? Nel portare l'ottimismo, qualche volta anche con delle affermazioni un po' ardite, diciamocelo apertamente. Io per esempio non credo che l'Inter, ma proprio per il discorso che faceva Garzia, non credo che l'Inter, a meno di un miracolo, possa diventare già l'anno prossimo competitiva per lo scudetto. Lo auguro ovviamente a Roberto Mancini, ma mi sembra francamente un tipo di scenario abbastanza così futuribile e incerto. Quindi insomma Mancini non ha mai cambiato pelle, forse soltanto dopo quel famoso pareggio col Parma, quel ritiro del giorno di Pasqua, abbiamo visto un Mancini un po' più aggressivo, un po' più duro, ma per il resto è stato sempre molto conciliante, molto ottimista, molto tranquillo. Anche le persone che lavorano all'Inter me lo raccontano, più sereno rispetto al passato, più maturo. Il problema è che rispetto agli sportivi, secondo me, ecco, il voto te lo do io, e per me è 5, sì. Lo dico sinceramente, insomma... C'è sempre una certa mancanza di chiarezza intorno ai progetti dell'Inter. Non è questione di Aiature o di un altro, si capisce benissimo che andrà a succedere. Mancini resta, va bene, però intorno comunque anche al mercato dell'Inter, Toir ogni tanto scende in campagna elettorale, Aiature magari arriva, magari non arriva, siamo alle schermaglie. Il problema è che non c'è una grandissima chiarezza né sulla quantità di denaro che sarà possibile spendere, né su quali giocatori possano effettivamente arrivare. Per chiudere con Evaristo Beccalossi, scusa se intervengo, siccome ho sentito Pierre che stava appunto dicendo il voto. Sì. Lui da 5 avere... sono stato cattivo. Se beccami... No, Pier, io credo di aver vissuto e visto abbastanza la situazione di chi c'era prima e chi è venuto dopo. Io ti assicuro che nell'ultimo periodo a San Siro, cioè, a parte la, tra virgolette, si era creato un piattume impressionante, quindi c'era un problema di ambiente, di squadra che faceva fatica a fare risultati. Quindi allora ci si aspettava tutti di più. Però credo che già la fiducia e vedere il ritorno di avere fiducia anche da parte dei tifosi, un certo passaggino è stato fatto. Ma, quindi, ecco, sì, sicuramente. Però... cioè, io, ma ti dico, poi i risultati mi aspettavo anch'io qualcosa di diverso. Il fatto che ci arrabbiamo perché dalle partite abbiamo preso dei gol balordi è già un fatto positivo, anche se sei arrabbiato, perché hai costruito e vedevi un tentativo di costruire. Prima non c'era rimasto neanche il tentativo, ti assicuro. Sì, te lo dico sinceramente, sono sicuro che l'Inter, se fosse rimasto Mazzarri, avrebbe finito la stagione peggio di come l'ha finita, se non in classifica. È ovviamente probabile che avrebbe fatto più punti. Detto questo, io sono d'accordo con te, Mancini è un grande allenatore, ma il 5 secondo me se lo dà anche Mancini. Cioè Mancini in cuor suo, e in qualche modo l'ha anche riconosciuto nelle dichiarazioni, sa benissimo che è mancato questa squadra qualcosa. Poteva fare di più e forse anche lui poteva fare di più. Detto questo, il futuro dell'Inter secondo me è un futuro che può essere luminoso proprio perché c'è un allenatore di quel livello. No, luminoso quindi... può essere anche rischioso, Pier, però quello che cercavo di trasferire, sono d'accordo con l'analisi tua che si poteva fare di più. Però io forse che ho vissuto le domeniche veramente era una roba di un piattume, ma questo non voglio colpire perché non mi permetterei di andare contro Mazzarri, però non era più accettato dalla tifoseria, certo. Magari conoscendo anche il rapporto si era creato un ambiente intossicato. E già il fatto di vedere che ci si provava a costruire un qualcosa non portando i risultati, però per me l'ho ritenuta positiva perché può essere utile in futuro, solo questo. Grazie Evaristo. Ciao, ciao ragazzi, ciao Pier. Pier, che fai? Vai o resti? Dove sei tra l'altro? Ma io andrei, ragazzi, sì, perché qui cominciano i festeggiamenti a Frosinone, qui siamo della grande festa al Matusa. Grande festa al Matusa, c'è un quarto della città allo stadio praticamente. Che non è grandissimo a proposito di grandi impianti di cui parlavamo. Dei temi, però insomma è anche chiaro che si farà di tutto. Tra l'altro Stirpe dovrebbe aver avuto le rassicurazioni per poter giocare al Matusa in virtù di questa vecchia legge sui capoluoghi di provincia che dovrebbe dare quindi tutta una serie di garanzie da questo punto di vista, ma nel frattempo da domani si comincia a lavorare per lo stadio. No, beh, insomma, è una cosa bella, adesso al di là di tutto, io, sapete come la penso, io sono tra quelli che pensano che quella battuta di Lotito fosse una battuta semplicemente sul bacino d'utenza e fosse un discorso generale legato a Carpi e Frosinone, però di il rovescio della medaglia è che invece è bellissimo che ci siano state due storie così, perché è una dimostrazione poi che nel calcio, anche su 42 partite in un campionato lungo e massacrante, poi non sempre chi è più forte, più grande, più ricco porta a casa il risultato. Certo. Questo è un gruppo eccezionale come è stato quello del Carpi, quindi oggi sarà, penso, una bellissima festa. Grazie Pier. Ciao, buon divertimento. Ciao. Grazie per Luigi Pardo. Facciamo in tempo fare Massimiliano da Lucca. Massimiliano. Buonasera. Eccoci. Buonasera. No, io volevo intervenire sul Milan e su Ancelotti. Sì. Spero che non sia un discorso tutto approssimato perché i presagi fanno sentire questo, perché Ancelotti non era ben visto da Berlusconi nell'ultimo periodo, poi fa l'intervista a Mediaset dicendo che insomma sarebbe contento del suo ritorno, però i nomi di mercato latitano e poi stamattina la notizia di Brocchi e Lippi, sì, la notizia insomma, la voce raccolta da tanti colleghi, da tanti giornali, sì, infatti. Ma prima di passare al rango di notizia, secondo me bisogna anche un attimo attendere. Certo è indicativo che non ci sia una via di mezzo, cioè Ancelotti è un allenatore top, non prenderlo non sarebbe una vergogna, perché per mille motivi Ancelotti potrebbe anche dire di no. magari in giro c'è altro, qualche nome è stato fatto, c'è Montella, c'è, insomma, ci sono anche delle ipotesi intermedie. Io credo che forse il tifoso del Milan si aspetti questo. E lì come all'Inter poche idee, ma confuso. Se non arrivasse la suggestione di Ancelotti. Grazie Massimiliano, 800240024, torniamo. Il mega direttore galattico ci costringeva ogni domenica dalle 17 alle 19 ad ascoltare tutti i convocati weekend. Ma per me tutti convocati weekend è una boiata pazzesca! Aia! Tutti convocati. Tutti convocati. La partita domani sera che deve ancora decidere parecchio della nostra posizione in classifica, che sarà determinante, sarà decisiva, e poi dopo tireremo le somme. Credo che nessuno si dovrà permettere di usare il termine flop per quanto riguarda il campionato che ha fatto la Lazio. C'è la partita domani sera che deve ancora decidere parecchio della nostra posizione in classifica, che sarà determinante, sarà decisiva, e poi dopo tireremo le somme. Credo che nessuno si dovrà permettere di usare il termine flop per quanto riguarda il campionato che ha fatto la Lazio. Sampdoria, al di là di tutto quello che può succedere, che si può fare, Sampdoria rimane sempre la mia casa, e comunque i tifosi e tutta la gente che vuole bene alla Sampdoria come me, penso che per quello che si è fatto da un anno e mezzo quando sono qua, può essere orgoglioso e contento. Non so se è stata migliore, io so sempre da dove sono arrivato che ho fatto sempre meglio del mio predecessore, in tutti i casi, e quelli che sono venuti dopo di me hanno fatto peggio di me. Poi io magari alcune stagioni ho fatto peggio, alcune meglio per quanto riguarda i giudizi vostri, ma i numeri non dicono mai le bugie. Credo che questa squadra abbia fatto grandissime cose, certo avrebbe potuto raggiungere anche qualcosina in più, ma quello non si può appellarci all'eccellenza, l'abbiamo fatto grandi cose. Credo che questo percorso tecnico sia finito e bisogna ricominciare, poi bisogna ricominciare e ricostruire, non è detto con le stesse risorse, lì bisogna fare chiarezza, con le stesse risorse, con lo stesso budget si possono ottenere gli stessi risultati, si può migliorare ed è difficile, questo è il mio punto di vista, si può fare uguale ed è altrettanto difficile, si può fare peggio che è molto più facile. E questo è il riassunto sonoro di quello che accadrà questa sera, campo principale ovviamente il San Paolo di Napoli, Napoli-Lazio. Io non ho maturato un'idea su come possa finire. Io neanche, sarà, come sappiamo, molti temi, sarà l'ultima di Benitez, secondo me, ma stiamo parlando di pura teoria, la Lazio meriterebbe il terzo posto per il campionato che ha fatto con l'organico che ha avuto. Il Napoli ha disputato una stagione alla fine, secondo me, sotto il par, non so se parliamo di voti, comunque sotto il 6, certamente sotto il 6 in campionato. Si gioca tutto in un'ultima gara, si dice che Benitez, ma forse anche questa è passata di moda, sia uomo da gara secca, uomo da coppa, eccetera eccetera. Questo è un preliminare, se vogliamo, non è neanche una partita di campionato. È un preliminare, la Lazio ci arriva un po' meglio rispetto al Napoli in questo momento. Sì, non so quanto psicologicamente, lo chiediamo a Sandro Sabatini, direttore di calciomercato.com. Ciao Sandro. Ciao, buon pomeriggio. Col quale, senza entrare nei dettagli, mi scuso umilmente, poi no. ci sentiamo dopo e andiamo avanti. Non ti preoccupare. No, Prego. Nel marasma hanno tentato anche di iscrivermi a un gruppo di ammiratori di Vanda, la moglie di Cardi. Insomma, questo è il meno, sta succedendo di peggio, perché poi purtroppo l'intelligenza delle persone è molto limitata ogni tanto. Senti, no, vabbè, prego, comunque nessun problema per me, anche se, vabbè. Dunque, la Lazio non meritava di perdere la Coppa Italia, la Lazio non meritava di perdere il derby e l'ha perso. La Lazio non meriterebbe di perdere il terzo posto, quindi questa sera lo perderà. Ecco, questa è la mia sintesi estrema, perché gioca a Napoli, perché la situazione psicologica è nettamente favorevole al Napoli, perché ci sono 60.000 spettatori, perché la condizione atletica è abbastanza simile tra le due squadre, non esattamente che non si presentano esattamente al top. E perché mi sembra che quando i nostri nonni che inventarono il proverbio non c'è due senza tre, forse si basavano su qualcosa, che adesso può tornare per i tifosi della Lazio terribilmente d'attualità. Tra l'altro Benitez, che di fatto è stato annunciato dal Real Madrid, io non so quanto volontariamente un vicepresidente ha detto ai tifosi: fino a ieri il migliore allenatore del mondo era Carlo Ancelotti per me, fino a 2 anni fa era Mourinho, la settimana prossima è Benitez. Poi gli hanno detto: attento, hai appena annunciato, hai tolto a Perez la sorpresa di fare l'annuncio del prossimo allenatore del Real Madrid. No? No, però credo che quel vicepresidente non passerà un bellissimo quarto d'ora. Ma tu ti sei dato una spiegazione, Sandro, sul perché questa sia una stagione che si chiude con tante panchine anche importanti in movimento? Montella, Mihajlovic, lo stesso Benitez, di Inzaghi abbiamo parlato prima. Ma guarda, a parte Inzaghi, sul quale obiettivamente il rendimento è nettamente inferiore alle attese, perché non sono berlusconiano, senza dire tutt'altro, aggiungere altre parole, comunque non sono berlusconiano, punto, però sono abbastanza d'accordo sul fatto che il Milan non è questa squadra da decimo posto, come dove poi è arrivata. Riguardo invece a tutte le altre panchine che saltano, perché tanto in Italia, lo diceva Sacchi tanti anni fa, non c'è la cultura della sconfitta, ed è giusto che non ci sia la cultura della sconfitta, è giusto che il motto sia l'importante, come quello della Juventus, che valga per tutti, no? Questo motto: l'importante non è partecipare ma vincere, è l'unica cosa che conta, ora non me lo ricordo a memoria, però obiettivamente si va verso la solita carneficina di allenatori, che era successa comunque abbastanza anche negli anni passati. Sì, anche se Sandro, in alcuni casi li abbiamo nominati, ad esempio Montella e Mihajlovic, mi sembra che siano loro allenatori in uscita da progetti che al limite le società sarebbero anche disponibili a rilanciare. Mi sembra che Ferrero non avesse tutta questa volontà di separarsi da Sinisa, forse anche della Valle con Montella. Ma guarda che gli allenatori, diciamo, anche usciamo da un luogo comune, no? Tutti hanno sempre citato Ferguson nei suoi lustri decenni alla guida del Manchester United. L'allenatore non può stare nella stessa società per più di 3 anni, perché altrimenti va fuori di testa, detto in maniera simpatica e amichevole. L'esempio è stato Antonio Conte alla Juventus. O lui o i giocatori, Sandro, o va fuori di testa lui o vanno fuori di bigli i giocatori. O i giocatori, sì, è vero, perché comunque poi si creano, sai, si crea l'abitudine, si creano le inevitabili relazioni affettive, amichevoli, insomma, cioè, alla fine l'allenatore ha bisogno di 2 anni, è il periodo giusto, 3 anni è il massimo. Ricordo anche tanti anni fa Sacchi, dopo 4 anni arrivò a un divorzio esattamente come Conte, perché disse: questa squadra non ha più le motivazioni, ne voleva cambiare tanti, compreso Van Basten e Berlusconi. Allora ricordo bene quella storia del Milan, invece investì su Capello quando ancora gli riusciva a scoprire i giocatori, gli allenatori, perché è convinto che quella squadra potesse dare ancora molto. Ed è così, perché succede così, succederà anche con... Tu hai vissuto in prima persona Moratti che scelse Cooper al posto di Ronaldo. Lì non ero in prima persona, ma ero comunque molto attento a quello che succedeva all'Inter. Già non lavoravo più per l'Inter, e quello fu l'unica volta nella storia di Moratti nella quale privilegiò l'allenatore al giocatore, perché poi ha sempre dato ragione ai talenti, ai giocatori, e mai agli allenatori. Quella volta lì scelse invece da ragionare. Ti posso correggere, ce n'è anche un'altra che è rimasta nella storia dei rimpianti interisti: Oxon, che diceva che Roberto Carlos non era buono per il calcio italiano. È vero, è vero. Questo per dire che quando si fanno i patatrack si fanno bene, cioè non è che si scelgono delle vie di mezzo. Anche quello è un bel patatrack, però se viene ricollegata tutta la storia, se sentite Oxen al telefono, ha sempre detto che comunque fu la società Inter a dirgli: caro mister Oxen, c'è l'opportunità di vendere Roberto Carlos con un'offerta del Real Madrid che supera le nostre attese. Lei che dice? E lui rispose: se la società è d'accordo, sono d'accordo anch'io, perché sono un dipendente della società. Non si oppose, ecco, diciamo che in altri tempi avremmo detto che comunque non poteva non sapere il valore di Roberto Carlos. Reato di omissione al massimo. Esatto, l'avremmo condannato, però effettivamente gli arrivò questa sorta di messaggio, ecco, dalla dalla società, e va anche detto comunque, ora stiamo parlando di tante cose che i nostri ascoltatori nemmeno ricordano, che si intuiva che Roberto Carlos sarebbe diventato un terzino sinistro fortissimo, ma quell'anno comunque all'Inter lui giocò bene le prime 10 partite, poi aveva avuto, era un po' stranito, insomma non aveva reso come poi si rivelò eccezionale al Real Madrid. L'errore resta, ecco, ho voluto mettere qualche attenuante. Ho un'ultima curiosità prima di salutarti ed è questa. Sì. Ti sei dato una spiegazione sul perché De Laurentiis si sia un po' raffreddato sull'ipotesi Mihajlovic, o almeno così risulta? No, però De Laurentiis ha la capacità, la voglia, lo spizio, l'abitudine di fare, sia dopo Mazzarri l'aveva fatto anche, di fare le ricerche come fosse un ufficio del personale. Il casting, ecco, lui, a lui garba tanto fare i casting, e evidentemente poi solo alla fine decide. Non lo so se sia giusto o no su Mihajlovic, la voce che riportano tutti i cronisti da Napoli, che in caso di qualificazione alla Champions League vorrebbe un profilo più con esperienza di Champions League. Io credo che Mihajlovic abbia comunque un'esperienza di Champions League maturata sul campo, e non sia indifferente, e soprattutto sia un allenatore che merita la Champions League per quello che ha fatto nelle sue recenti esperienze. Questa è la versione buona. Volete una versione un pochino più insidiosa, chiamiamola così? Perché dice secondo quello che risulta a calciomercato.com, i due sono stati anche a cena assieme. Ecco, basta non andare a cena dall'antipasto al caffè, ma basta prendere un tramezzino al bar per capire che comunque la personalità di De Laurentiis e quella di Mihajlovic sono ad altissimo rischio. Insomma, sì, sarebbe un bel match, sarebbe un bel match l'anno prossimo. Se Mihajlovic va al Napoli, abbiamo. D'altra parte, non credo tanto che De Laurentiis prenda una pecorella, visto qual è il suo carattere, Sandro. No, certo, però è chiaro che comunque metterebbe comunque in casa uno con una personalità che basta guardarlo negli occhi per capire che personalità è superiore a Benitez, superiore anche a Mazzarri. Magari l'allenatore, il presidente dice mi metto in casa uno che comanda più di me, ecco, non lo so, può essere anche, il fatto poi di comandare, un conto vabbè, poi in comandare si gioca a 4, a 3, a 2, a mezza punta eccetera, ma se poi comandare significa anche sul mercato si fa quel che dico io, è chiaro che un presidente, c'è un po' da capirlo, dice aspetta un attimo, perché qui ci vuole la società, perché poi i giocatori, quando tu vai via, mi restano a me. Certo. Raul Albiol che guadagna 4 milioni. Sì, adesso il Napoli se lo tiene per almeno per un paio di stagioni di contratto. Sì. mica torna al Real Madrid con Benitez. No, assolutamente. Non credo che Benitez sbarcherà domani proponendo a Perez l'ingaggio di Albiol. Grazie Sandro. Ciao Sandro. Ciao, convocatemi quando volete. Grazie Sandro. Sicuramente. Ciao. Sandro Sabatini, facciamo subito il traffico. Traffico. Tutti convocati. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta. Tutti convocati. Gaetano da Roma, Gaetano. Salve, grazie della convocazione. Eccoci. Allora, io volevo chiedere a Carlo Centa, che è il mio giornalista per sportivo preferito, proprio perché lo dice lei, insomma, allora la cosa in me suscita una profonda riflessione, perché questa insistenza su Ancelotti che non viene al Milan? Io sono un cinquantenne tifoso del Milan, devo dire che questa dirigenza secondo me quello che ci ha fatto vincere mi sembra. No, ma sarebbe fantastico. Dopodiché, attenzione, io non dico che non vorrei Ancelotti al Milan, sarebbe fantastico per i milanisti se Ancelotti venisse al Milan. No, ma io ne faccio un fatto senza entrare in speciose polemiche, ma visto anche il bombardamento che Sky sta facendo anti-Milan, sembra di essere tornati alla guerra di Segrate di 25 anni fa, no? Io dopo 10 anni ho deciso ma lasci perdere queste cose. Sì, lasciamo stare le guerre degli altri, ammesso che esistano. Ma lasci perdere queste cose. Su Ancelotti ci sono delle valutazioni che obiettivamente tornasse è un grande colpo per il Milan, però io va dico costruito soltanto, anche intorno qualcosa. Ma certo, ma io dico soltanto, se fossi Carlo Ancelotti mi prenderei un anno di riposo, di relax, sabbatico, come volete voi chiamarlo voi, in attesa che arrivi una grande squadra, perché è un allenatore da podio mondiale. Sicuramente uno dei primi quattro. Chi è? Buonasera, sono Papa Francesco. Addirittura. Eminenza, buongiorno. Buonasera, anzi. Santità. Buonasera. Non è una novità, ci chiama. Insomma, cosa dobbiamo il piacere? Cosa dobbiamo il piacere? Io sono molto preoccupato di queste voci che sono sempre più insistenti. Sì, quali voci? Dicono negli ambienti vicini di Monsignor Tarcisio Bertone, sì, quindi nelle mansarde, sì, sì, che è già pronto il mio successore. Oh, successore di Papa Francesco, e sarebbe? E ho chiamato voi perché sicuramente sapete più di me in questo senso. Sì. Il suo nome si dice che sarà Papa Joseph Quinto, no, ma non mi ricordo il cognome vero. No, ma ci dia qualche indizio, Joseph Quinto a me non... E mi dicono che sì, uno che domina la paura. Domina la paura? Cioè, sì, in che senso? Che presiede la paura, la FIFA. Ma no, Joseph Blatter, quinta volta presidente della FIFA. Lo, no, insomma, non lo escluderei. Non arriva al Vaticano, oh, però. Beh, dipende, no, se va, se sì, lascia sì, la FIFA. Sì, esattamente, lui. Monsignor, sì, Blatter, Joseph Quinto. Sì. No, ma pensi che poteva anche andarci il principe Ali. Ali. E invece al posto di Ali, mi sa che hanno eletto i 40 ladroni. No, però... ma ditemi, come questo santità, Blatter, sì, è più Scasamaroni di Ratzinger? No, non ci sono paragoni, santità, arrivederci. E allora non c'è resta che pregare. Non c'è resta che pregare. Preghiamo. Preghiamo, era il nostro Andro Mercù. Loris da Verona, Loris. Buonasera, sono un tifoso pontivo, diciamo. Ho ritorno nel telefono, vabbè, faccio fatica a sentire. Sì, dica. Allora, niente, io volevo rispondere al radioascoltatore di prima di Verona, che diceva praticamente che ha visto scene che levavano la maglietta della Juve ai bambini, facevano levare. Sì. Io ieri sera non ero allo stadio. Però ogni tanto vado a vedermi in qualche partita. Essendo sportivo, la vedo in modo molto diverso di molte persone assidui, tifosi, accaniti. Però le posso assicurare che a Verona ci saranno sì i soliti scandalati, su questo posso garantirlo anch'io. Però non è giusto ogni volta alzare la voce su una città come Verona che ha due, sì, buone, però credo che sia lavorano sì, bene, non credo, no, ma nessuno sono scalmanati, ma hanno anche tifosi che vanno a vedere partite, ma nessuno alzava la voce sulla città di Verona, l'ascoltatore telefonava da Verona e citava semplicemente un episodio che non gli era giustamente piaciuto, non si è messo a dire peste corna su Verona, sulla sua tifoseria. È un episodio, eccetera, che non piace, perché diciamo la verità, non piace, lo circoscriviamo lì, che sia a Verona o in qualunque altro luogo. Noi attendiamo con impazienza il momento in cui queste cose non saranno più necessarie, se mai arriverà. Chiudiamo col giro, ciao Ivan Basso. Ciao Ivan. Ciao a tutti. Ti rubiamo 5 minuti dai festeggiamenti. Anche tre. 3 minuti, ti rubiamo per 3 minuti dai festeggiamenti. Dimmi solo se sinceramente ieri a un certo punto avete temuto di perderlo, questo giro. Ma diciamo che è stato un giro molto molto duro, e quindi tutti i giorni abbiamo avuto paura di perderlo. Avevamo un vantaggio rassicurante, ieri è stata una giornata molto difficile dove Alberto ha avuto qualche difficoltà, noi non siamo stati bravi come dovevamo, e quindi è stata una giornata molto molto difficile, però alla fine i giri e i tour, comunque le grandi corse a tappe, si vincono nelle giornate di difficoltà, mantenendo la calma e cercando di limitare i danni nel miglior modo possibile. Nei momenti difficili. Ma vi ha dato un po' fastidio leggere in questi giorni? È Contador da solo il pistolero contro una squadra intera? Contador abbandonato dai suoi? Ma guardate, gli uomini di sport sanno benissimo che la critica è... fa parte del nostro mestiere, come la pressione per fare il risultato, quindi accettiamo ovviamente e siamo anche consapevoli del fatto che la Stana è stata sicuramente superiore a noi in alcuni momenti della corsa, però c'è anche un'altra analisi da fare, questo non sicuramente non per nasconderci dietro la realtà, perché tutti hanno visto che eravamo molto spesso in difficoltà e in alcune occasioni non siamo riusciti a fare quello che dovevamo, però difendere la maglia rosa per 18 giorni qualcuno avrà pur dovuto tirare un po', quindi si fa molto in fretta, ma credetemi, io corro in bici da più di 30 anni, io avevo nella squadra di questo Giro d'Italia corridori esperti e di grande valore, quindi tutti sappiamo quello che abbiamo fatto e come abbiamo preparato questo giro, quindi accettiamo la critica, però il nostro lavoro è correre, il lavoro di qualcun altro è criticare, quindi ognuno fa il suo. Certo, 20 secondi, Aru è destinato e predestinato a vincerlo un giorno il giro? È già una certezza, più che predestinato, perché è un atleta che ha fatto terzo l'anno scorso, ha fatto secondo quest'anno, ha fatto un'ottima vuelta in mezzo ai due giri d'Italia. Io credo che anche il fatto di fare il doppio appuntamento Giro Tour gli darà ancora maggior sicurezza e maturità sotto tutti i punti di vista per poter puntare ovviamente alla maglia rosa già dal prossimo anno. Certo, grazie Ivan. Ciao Ivan. Grazie a voi. Complimenti. Buona serata a tutti. Complimenti. Ivan Basso, scudiero capitano, culto di Alberto Contador. Abbiamo finito. Io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Roberta Frisani in regia. Saluto anche a te Carlo, domani appuntamento? Alle 2, dopo il GR delle 2 siamo, e dopo l'appuntamento con l'Europa, tutti convocati. E invece noi ci sentiamo domenica alle 17, il giorno dopo la finale di Berlino.